Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ci sono momenti nella vita di chi fa informazione scientifica che possono essere piuttosto duri e in questa puntata ne incontreremo uno, però incominceremo in modo soft. Faremo le cavi umane. Incominciamo però in modo soft, raccontando questo rapporto, bel rapporto tra scienza e arte, perché sono andata a visitare una mostra a Novara e voglio farvi sentire. E quindi era meglio parlare prima di questo, perché poi dopo io e Chiara mangeremo dei biscottini di grillo. E di locuste, quindi di locuste. State con noi. Quindi bisogna vedere come va a finire. Via, incominciamo. Dalla nascita dell'universo all'origine dell'arte. Questo è il sottotitolo di una mostra che si chiama In Principio. Stiamo per entrare al Broletto a Novara, dove appunto ci aspetta anche uno dei curatori scientifici della mostra, Stefano Papi. Ciao Stefano. Ciao Chiara, benvenuti a tutti. Tu ci accompagnerai in questa mostra, anzi entriamo, facciamo così, entriamo e portiamo i nostri ascoltatori all'interno di queste sale. Ecco, qui prima impressione che ho è che abbiate messo un po' di tutto. Allora, ci sono opere d'arte, anche piuttosto famose, addirittura un Fontana, vedo delle sculture di Mimmo Paladino, ma anche degli strumenti scientifici, dei vecchi sismografi e non solo, dei touchscreen, quindi per le interazioni anche per i bambini. Dei video, tantissimi strumenti, degli animali, insomma, dove stiamo entrando? Stiamo entrando in un percorso, in un viaggio. Questa mostra si chiama In Principio perché vuole indagare le origini di un po' di tutto, come giustamente hai detto tu. Abbiamo provato a capire come gli esseri umani si sono posti la domanda da dove veniamo, e le risposte sono tantissime, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista artistico. Quindi indaghiamo l'origine dell'universo, della Terra, della vita sulla Terra, e poi tra tutte le specie viventi della nostra, quindi l'origine degli esseri umani nel nostro piccolo universo, perché siamo speciali, quindi l'origine del cervello, l'origine del linguaggio, l'origine dell'arte, che diciamo sono tre aspetti che ci distinguono dalle altre specie. L'universo in origine era caldo e denso, poi si è espanso e si è raffreddato, ma una traccia del calore iniziale è ancora presente nell'universo attuale e possiamo captarla sotto forma di un debole segnale radio. Anche usando una comune antenna, per esempio quella della televisione o della radio, una piccola parte del rumore che captiamo con questi strumenti è dovuta proprio a questo segnale che ha viaggiato dall'origine dell'universo. Ovviamente i cosmologi lo hanno studiato usando strumenti più complicati, radiotelescopi a terra oppure montati su palloni o addirittura nello spazio, su satelliti, e attraverso questo studio sono riusciti a ricostruire un'immagine di com'era l'universo appena nato, quando aveva poco meno di 400.000 anni di vita. È un po' come dire che se l'universo oggi fosse una persona di 80 anni, quell'immagine ce lo sta mostrando com'era quando era un neonato di poche ore. E in questa esposizione vediamo che corrono in parallelo queste due linee, la scienza e l'arte, che cercate sempre in ogni sezione di raccontarle in maniera proprio parallela, che si affiancano e convivono. La domanda è questa: la scienza e l'arte si parlano? Noi pensiamo di sì, non solo a livello di contenuto, quindi il visitatore qua potrà trovare le risposte che nei secoli artisti e scienziati si sono date alle grandi domande, ma l'altro motivo per cui si parlano è l'estetica, quindi troverete reperti scientifici bellissimi e opere d'arte interessantissime, quindi proprio due mondi che normalmente vengono vissuti separati. Pensate alla scuola, pensate alle mostre d'arte, alle mostre scientifiche, ecco, questa è una mostra ibrida, se ne fanno poche di questo genere in Italia, in cui per esempio l'arte non è un oggetto di studio puro e semplice, di solito si fanno mostre su un artista o su un movimento, no, qui l'arte è funzionale a spiegare come essa stessa sia una delle risposte che l'uomo si dà di fronte ai grandi misteri dell'universo. Partiamo da questo quadro che abbiamo qui davanti, io adesso lo descrivo agli ascoltatori che chiaramente non lo possono vedere, ma che potranno vedere il video che in contemporanea stiamo girando sul nostro blog su Radio 24. Quello che vedo sono delle sfere, dei cerchi, alcuni concentrici e poi degli altri piccoli cerchi blu e azzurri come se fossero pianeti uniti con delle linee che possono sembrare delle orbite, che però in realtà, se mi allontano, se faccio un passo indietro, potrebbero anche rappresentare un atomo con i propri protoni, i propri elettroni, un po' come a voler rappresentare, ora tu me lo spiegherai, un po' tutto, cioè dall'atomo, dal micro al macro, all'universo. Sì, infatti ci vedo uno stivale, in realtà ci vedo un cavallo, ci vedo un continente, ci vedo una luna. Questa opera di Alberto Di Fabio si intitola Big Bang. Questo artista contemporaneo infatti si è fatto ispirare dalla scienza per le sue opere, ne vedremo anche altre all'interno della mostra. L'idea è proprio questa, lui è addirittura andato al CERN di Ginevra a parlare con i fisici che stanno studiando gli istanti immediatamente successivi al Big Bang, alla prima grande esplosione, e da questo si è fatto ispirare per quest'opera d'arte. E quindi la storia è proprio questa, cioè da un punto iniziale 14 miliardi di anni fa è poi nato tutto, tutto ha avuto origine da quel momento, questo è quello che ci spiegano gli scienziati. Beh, anche gli artisti, da un lato con opere d'arte come questa e dall'altro con altre opere d'arte magari più antiche come il Guercino con il suo Atlante, che invece ci dimostra come anticamente, nei secoli passati, di fronte a un mistero insondabile come la grandezza dell'universo, i miti, le leggende, le stesse religioni nascessero per darsi un po' delle risposte, e gli artisti sono riusciti a immortalare questo sentimento nelle loro opere. Uno dei pezzi, guarda, facciamo qualche passo, uno dei pezzi di cui siete più orgogliosi qui in mostra, e che anche qui è un misto tra arte e scienza, è la luna rappresentata, le tavole originali della luna rappresentata da Galileo Galilei. Ci sono degli schizzi proprio fatti dalla mano dello scienziato in cui ci mostrano, diciamo, le facce, le diverse facce della luna e l'irregolarità della propria superficie. È da lì, per la prima volta, che si è capito che la superficie della Luna appunto non fosse una sfera perfetta, ma in realtà fosse piena di monti e di laghi. Ecco, immaginatevi un uomo del 600 che alza lo sguardo al cielo con uno strumento nuovo, il cannocchiale mai nato prima, e scopre che l'universo non è qualcosa di diverso da quello che c'è sulla Terra, ma è simile a qui, e quindi che tutto è collegato. Questa è la grande rivoluzione scientifica nel 600, che parte con Copernico e arriva fino a Newton, che è sempre in mostra, ed è quello che vogliamo raccontare. Io ho avuto un po' di brividi quando ho toccato le lune che la manina di Galileo Galilei ha disegnato su questi fogli, non solo perché tutto il contenuto scientifico che c'è dietro, ma anche proprio per l'estetica, cioè è quello che dicevamo prima, le opere scientifiche a volte riescono ad essere fantastiche. Dall'origine dell'universo, all'origine del nostro sistema solare, fino all'origine della Terra, arriviamo a 3,5 miliardi di anni fa, quando le prime molecole organiche si formano e danno origine a quella che è la vita. Ecco che poi l'evoluzione fa il suo gioco, ne abbiamo parlato tante volte qui a Mebius, e arriviamo in questo angolo dedicato all'evoluzionismo, al grande naturalista Charles Darwin, e avete deciso di rappresentarlo in una maniera un po' particolare. Allora, quello che vedo io sono 5 uccelli, si chiamano uccelli combattenti, la specie è Philomachus pugnax, e quello che vediamo, Stefano, raccontacelo tu. L'idea è proprio raccontare come la vita non si è fermata una volta che si è generata, ma come tutto si è trasformata nel tempo. Allora abbiamo immaginato di mettere l'origine delle specie di Darwin al centro di un grande pannello e da questo libro far esplodere tutte le teorie, quindi animali, insetti, colombi e quant'altro. Perché i combattenti? Perché i combattenti sono un esempio di evoluzione in atto. In questa specie di uccelli, il maschio, quando vanno in estro, i maschi si radunano in grandi arene e cominciano a fare dei combattimenti, da cui il nome della specie, mentre le femmine osservano per capire qual è il partner migliore per loro. Beh, innanzitutto questi uccelli cambiano il loro piumaggio durante questa fase. Il maschio presenta dei piumaggi sul collo incredibili, proprio per comunicare la sua superiorità. E infatti qui in mostra vediamo un esemplare femmina bianco e marroncino, e invece i maschi che hanno delle piume, delle penne molto diverse, molto più colorate, anche con una specie di criniera sotto al becco. Ecco, però la particolarità di questo uccello non è solo questa, cioè non è solo il saper variare il piumaggio, ma anche imitare le femmine, ovvero mentre alcuni maschi stanno in mezzo all'arena a combattere a sangue per riuscire ad accoppiarsi, altri, forse un po' più furbi, imitano il piumaggio delle femmine, si mescolano alle femmine e nel mentre che le femmine osservano il combattimento, distratte in qualche modo, fondamentalmente le fecondano e quindi riescono a far andare avanti nelle generazioni la loro caratteristica di mimi all'interno della specie. Davvero tutti i capitoli dell'origine delle specie sono raccontati da questo animale. Ed ecco che la furbizia, qui capiamo che non è proprio solo peculiare dell'essere umano. No, anzi, tantissime specie la raccontano. Ancora una volta la scienza e l'arte si fondono, perché arriviamo in questa parte conclusiva della mostra in cui capiamo innanzitutto che l'arte è insieme a noi già dal principio, nel senso che ci sono in mostra anche dei bellissimi video di quella che era l'arte preistorica, e poi l'arte contemporanea, l'arte moderna, che attraverso i materiali, i colori, viene rappresentata nuovamente un po' come un ritorno al primitivo. L'idea è questa, anche qua due aspetti: da una parte proprio l'arte primitiva, perché a un certo punto l'uomo ha cominciato a voler rappresentare e se stesso con le famose mani e i propri idoli e gli animali che vedeva, perché il bello lo ha affascinato, e dall'altra parte l'arte contemporanea, in particolare nel Novecento, con artisti come Palladino, come Fontana, come Burri, che vanno alla ricerca di qualcosa di primitivo per togliersi tutte le sovrastrutture che la storia dell'arte aveva imposto loro, e quindi hanno studiato l'arte preistorica per riuscire a capire qual era l'origine del gesto estetico, perché alcune forme ci affascinano, perché alcuni colori sono così importanti per noi. Una su tutti, proprio l'opera di Burri, che si intitola Catrame, i visitatori vedranno che, pur non essendoci nessun tipo di disegno, ma la matricità della pennellata e del materiale, soprattutto i quattro colori, il nero, l'ocra, il bianco e il giallo, sono esattamente gli stessi colori che troviamo per esempio nei dipinti di Lascaux, le famose caverne con i tori e con i cavalli. Ecco, la ricerca del Novecento è stata proprio questa, ed è un po' circolare, esattamente come è circolare la nostra mostra. E infatti, se abbiamo in qualche modo incuriosito gli ascoltatori, e se anche gli ascoltatori si sono poste le famose domande: da dove veniamo, chi siamo e da dove ha origine tutto, ecco che insomma li invitiamo qui. Stefano, fino a quando sarete qui? Noi siamo qua fino al 6 di aprile, e quindi c'è ancora tempo per venire a visitare questa mostra. Siamo al Broletto di Novara, contenitore stupendo vestito a festa per questa mostra particolare. In principio, dalla nascita dell'universo all'origine dell'arte. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, prendete la penna, perché poi quando si danno le ricette per radio bisogna dare avranno, tempo agli avranno il podcast per qualsiasi curiosità. Certo, anche sul sito la mettiamo. Sì. Allora, qui intanto, non so se si sente qua il barattolo, lì, abbiamo un po' di ingredienti per la ricetta che stiamo andando a preparare. Qui in studio ci hanno già raggiunto Giulia Tacchini e Giulia Maffei, ma ora le presenteremo, anzi si autopresenteranno. No, perché Giulia Maffei incomincia a snocciolarci la ricetta, poi entriamo nel vivo. Un uovo, 250 g di farina 00, 50 g di farina di grillo, 180 g di burro e 100 g di zucchero. Di grillo. Aspetta che prendo il barattolo. Farina di grillo è qua. Eccola lì. Giulia, dimmi se sbaglio. Allora, intanto apro il barattolo posto. Allora, qui avete tritato dei grilli. Esattamente. Che abbiamo qui nell'altro barattolo. Okay. Corretto. Apro. Stai odorando? Posso dire il sapore? Sì. Odore. Allora, odore tipo grano saraceno misto crocchette di gatto. Un po' quel sapore lì. Del croccantino di gatto. Del gatto. Sì, poi non lo so, magari nel biscotto non viene male. Giulia, la ricetta che ci hai dato è per cucinare degli appetitosi biscotti alla farina di grillo. Dei frollini. E dove hai reperito i grilli? Allora, i grilli li ho reperiti a Padova, dove c'è un allevamento di insetti per uso alimentare animale. Loro però si fanno arrivare un camion ogni 2 settimane dall'Olanda, direttamente da un allevamento che invece alleva insetti per uso alimentare umano. Di conseguenza i controlli igienico-sanitari sono superiori. Ok, quindi non andate a reperire grilli in giro per i boschi. Non ancora. Ok, li prendete da allevamento in qualche modo certificato. Li devi prendere vivi? Sì, li devi prendere vivi e poi li puoi continuare ad allevare a casa in maniera controllata. Ma poi quando devi fare la ricetta, sono essiccati di fatto, no? Eccoli qua. Per ucciderli ci sono due possibilità: o metterli in congelatore dove si addormentano, o aspettare la vecchiaia, oppure buttarli in acqua bollente salata, che è comunque un passaggio che si fa per igienizzare l'insetto. Cioè, aspettiamo già le mail degli animalisti, ma andiamo avanti. Dunque, Giulia Tacchini, allora voi avete costituito, diciamo, una società che si chiama Entonote, o Entonote anche in italiano, quindi per chi fosse curioso vi può trovare su internet, e vi occupate di divulgare in qualche modo questa nuova pratica per l'Europa che si chiama entomofagia. Giulia Tacchini, se vuoi raccontarci di che si tratta. Allora, l'entomofagia è la pratica di mangiare insetti, nonostante non faccia parte della nostra cultura alimentare, quindi quella occidentale o quella italiana, dobbiamo ricordarci che l'80% delle popolazioni mondiali già mangiano insetti. In più, in realtà, se andiamo un po' indietro nella storia, vediamo come anche i romani e i greci già in realtà facevano uso di insetti nella loro alimentazione. Anche i romani. Anche romani, sì, romani, greci. Che tipo di insetti? Sempre grilli, formiche? Tantissime cavallette, quando si parla di queste cavallette che devastavano campi, in realtà poi dopo venivano assolutamente consumate, oppure c'erano addirittura... Assolutamente, esatto, non si butta via niente. Ma è vero che la cavalletta è un po' come il gambero, in effetti è un animale consimile, no? Federico, vuoi provare? Ce le abbiamo qui le locuste. Vai. Magari dopo, dopo la prendo, sì. Assolutamente sì, in realtà, come ci insegna Giulia Maffei, che poi è la biologa, quella poi più specializzata all'interno di Entonote, la cavalletta in realtà e gli insetti sono dello stesso filum dei gamberi. E addirittura quando noi mettiamo la cavalletta a bollire vediamo come cambia colore, prendendo il colore rosa come succede come ai gamberi. Ok, e senti Giulia Maffei, questa volta, visto che lei è la biologa, che proprietà nutritive hanno? Sono molto ricchi di proteine? Assolutamente sì, sono ricchissime in grassi insaturi, che sono i grassi buoni e non i grassi cattivi, e sono ricchissimi in proteine, molti amminoacidi di cui sono costituite le proteine, sono ricchissimi anche in ferro e vitamine, soprattutto del gruppo B. E sono ricchissimi, soprattutto i grilli e le locuste, in calcio. Hanno una capacità di assorbire il calcio molto elevata. C'è un cibo nostro occidentale che possa essere in qualche modo paragonato? Occidentale? I gamberi? No. Sì, i crostacei sicuramente. In maniera un po' forzata anche i legumi. Sì, ma in maniera un po' forzata. Hanno una... Così ricchi non abbiamo niente, insomma, dobbiamo proteine, affacciarci. Così equilibrato soprattutto, no, perché i legumi, per esempio, in proteine sono molto meno ricchi degli insetti. Quindi il risultato di questa cosa, cerchiamo di essere seri, è che in realtà come alimento è più completo assolutamente di molti alimenti che noi consumiamo normalmente. Qui però io vedo anche, stiamo insistendo sul grillo, ma vedo camole. Ah, qui abbiamo un sacco di barattoli. Le Giulie ci hanno portato le camole del miele. Sono cagnotti. Larve. Sono larve. Le larve. Ah, Federico l'assaggia, attenzione, sì, ascoltato. È molliccia. Mamma ragazzi. Sì. Apriamo una parentesi sul un po' il disgusto, cioè non è che vorrei proprio fare la voce fuori dal coro, perché sembrano cose appetitosissime. I biscottini che ci hanno portato le Giulie sono veramente, dopo li faremo assaggiare anche in redazione, anzi a proposito stiamo girando il video così poi sul blog potete trovare la testimonianza. Però, un gusto delicato, sì. Un gusto delicato di? Beh, in effetti hanno, sono dolciastre. È dolciastro. E perché sono camole del miele. Le camole del miele dicono, anche secondo me, ricordano molto la mandorla, il pinolo, il frutto sì, secco. Sì, ricorda un po' questa roba qui. Però ha una sua specificità. Bene. Non è vero che assomiglia. No, perché uno può pensare, anche per quello che stiamo dicendo, che bisogna sempre dire assomiglia. Invece però, hanno una loro autonomia. Per capirci, insomma. E Giulia Tacchini, vabbè, sul disgusto vogliamo dire qualcosa? Cioè nel senso che ci hai detto che tante popolazioni li mangiano tranquillamente. Io però qualche problemino qua ce l'ho, se vi posso dire. Di disgusto? Un po', sì. Cioè, io non so se proprio assaggerei queste locuste o quelle camoline lì che tu hai assaggiato. Io mi Quindi, butto in realtà, è un mio problema psicologico, è un nostro problema occidentale. Federico si butta sui? Biscotti. Sul biscotto. Con la farina. A mani piene. Biscotto ecco. Di grillo, è questo? Sì. Io provo. Vabbè, no, intanto Giulia ci racconta. No, che se è un'impressione solo mia questa qui del disgusto, oppure di noi occidentali, perché in realtà tantissima gente li mangia in maniera tranquilla. In realtà sì, è sicuramente un blocco culturale che, come dicevo prima, non è un alimento legato alla nostra tradizione. Poi soprattutto anche noi italiani siamo molto legati al cibo, alla nostra cultura alimentare. Appunto, parlando del biscotto, sicuramente trasformando l'insetto intero in farina e utilizzare fare, utilizzarla per una preparazione come può essere il biscotto, il salatino o altro, sicuramente a una persona come te che magari a vederli così interi si può un attimo spaventare. Ha fatto una scorpacciata di biscotti di Grillo. Ecco, sicuramente in questo modo. Ti devo chiudere il microfono perché continuava a sticcare davanti al microfono. Sicuramente attraverso il biscotto è molto più facile. Devo dire che però anche negli eventi che abbiamo fatto io e Giulia, inizialmente la gente si irrigidisce un attimo, ma poi sono talmente tanto curiosi di vederli, toccarli, annusarli, che poi dopo li assaggiano. Devo dire che l'aspetto fa tanto, perché ad esempio quei biscottini li sembrano molto appetitosi. Questi, guarda, sono biscotti. Scusa, diciamo che c'è tutto il video di questa trasmissione. Sì, infatti. Più altro, quindi potete vedere che io sono li ho proprio mangiati. Frollini. Ma questi, no, questi provali, sono biscotti. Adesso li assaggio, però provalo. Che il video mi sia testimone che li sto mangiando. Però non mangerei mai, credo, questi grillini qua o queste locuste qua, questo ve lo devo dire. No, scusa Giulia, ti abbiamo interrotto perché? Perché in realtà noi, il nostro mondo occidentale, anche un po' appunto per cultura, siamo un po' disgustati soltanto dalla vista, in effetti, poi per curiosità magari li assaggiamo, però c'è tutta una parte anche legislativa che in qualche modo regola questo consumo e qui non siamo proprio prontissimi in Europa. No, più che in Europa, diciamo che ci sono due paesi nello specifico, nonostante la legislazione appunto europea non lo permetta né di somministrarli né di commercializzarli, ci sono due stati membri che sono il Belgio e l'Olanda, che in realtà da pochi mesi hanno fatto proprio una normativa dove hanno fatto degli studi considerando una decina di insetti commestibili e quindi questi possono essere commercializzati e somministrati. Addirittura adesso troviamo in Olanda dei supermercati che vendono gli insetti interi pronti all'uso oppure sotto forma di hamburger o polpette, crocchette, cioè addirittura anche la cotoletta. Io sto mangiando il biscotto. Stai mangiando, ma è biscotto, hai notato? Un biscotto, sì sì, un frullino. Com'è, Chiara? Buono. Ma questa cosa della legislazione però, mi sembra che dal punto di vista delle componenti, degli ingredienti, sia abbastanza facile capire se possono essere dannosi o no, perché hanno dentro poi degli elementi che sono gli stessi che mangiamo negli altri cibi, quindi non ci sono delle novità. Il problema forse sta nel come li devi allevare, nel come devi distribuirli, è lì che probabilmente c'è una differenza da colmare. Sì, diciamo che manca ancora tanta ricerca proprio su questo, su come allevarli e come trattarli. Un po' tutta la ricerca che poi c'è stata in tantissimi altri alimenti che tutt'oggi sono in commercio. Certo. Quindi su questo punto qua manca ancora tanta ricerca. Giulia, i 10 insetti che adesso sono consentiti in Belgio comunque hanno un loro controllo, una loro filiera, per arrivare sia dal punto di vista, quindi se sono arrivati in Belgio e in Olanda ci aspettiamo che insomma anche gli altri paesi, la Commissione Europea ne sta discutendo. Ecco, io però adesso lì ci sono queste cavallette, questi grillotti che sono però già fatti, già pronti. Mi sto domandando se effettivamente, per le cose che dicevi tu Chiara prima, cioè del questo problema del disgusto, se sia davvero possibile mettere un supermercato un bancone con i grilli che saltano. Beh, in Cina o nel mondo asiatico è normalità. Ma tu ti vedi sono un dentro supermercato, i sacchettini come se fossero delle patatine. Esatto. No, il grillo salta. Come non trovo neanche un maiale vivo al supermercato. Appunto, è difficile. No, ma voi invece vi vedete, lo vediamo noi tutti, il fatto che ci possa essere in un supermercato un banco dove ci sono i grilli che saltellano. Certo che però quelli che amano le aragoste vivi magari no, però essiccati sì. No, pronti all'uso. Essiccati è tutta un'altra cosa. No, vivi ne dubito, essiccati secondo me comunque ci vogliono ancora diversi anni, soprattutto in un paese come l'Italia dove la cultura alimentare sì. Sì, però è diverso perché per esempio quando si va a comprare il pesce, l'intenditore che va al mercato del pesce vede anche pesci vivi, dentro, dobbiamo solo cambiare un attimo direzione, però l'idea di prendersi qualcosa di vivo che poi cucini non è che noi siamo così lontani. No, non siamo lontani, perché se pensiamo ad esempio ai gamberi o all'aragosta appunto così, vengono vendute anche le anguille vive. Fa un po' impressione pensare anche ad un bancone dove ci siano tutti questi comparti con grillini essiccati, diciamo. Certo. Comunque bisognerebbe superare un piccolo step culturale, senz'altro. Ma è tutto un percorso, per far abituare le persone, sì. Perché poi vediamo anche quando ne parliamo che discutendo delle loro proprietà nutritive, discutendo delle loro del loro basso impatto ambientale anche. Ecco, perché questo è un aspetto interessante. Perché ovviamente noi sappiamo che, ad esempio, l'allevamento di bestiame sono tra le attività umane più inquinanti al mondo, più impattanti nel nostro pianeta. Ecco perché anche la FAO qualche anno fa, già nel 2003, ci disse che potevano essere il consumo di insetti una delle soluzioni per alcuni paesi in via di sviluppo. Ecco, in questo caso addirittura facciamo un discorso anche ecologico. Sì, perché allevare grilli, insetti in generale, camole eccetera, ha un bassissimo consumo sia di acqua che di energia che di terreno, e l'impatto ambientale in termini di emissioni di gas è molto bassa. Molto bassa. Ovviamente rispettando le specie del luogo, perché certo, se noi proviamo ovviamente ad allevare delle specie che sono africane, chiaramente il discorso la cambia. La camola del Perù, tu dici. Ci teniamo le specie autoctone, nostra, insomma. Certo. Beh, ma di grilli ne abbiamo. Una specie di slow food dell'insetto. Locale. Ma qui vedo un libretto che avete portato, Note di cucina di Leonardo da Vinci. Lui ha fatto di tutto, ma ha fatto anche, cucinava insetti? Assolutamente sì. Ma oltre... no. Oltre che moltissime altre pietanze insolite come il ghiro o il riccio. I e gatti. Quel libretto lì riporta delle diverse ricette. Addirittura lui ha aperto una trattoria, la trattoria di Sandro e Lorenzo. Con Botticelli. Con ah, Botticelli. Sì? Dove si mangiavano insetti, si mangiava un po' anche di tutto. Questo non lo non so e certo, non c'è scritto, però lui dedica proprio una pagina in cui dice quali sono gli insetti per lui da considerare come alimento e quali no. Ah. Per cui parla di mosconi come insetti da non considerare alimento e grilli, cavallette. A questo punto si taglia la testa al toro, perché se Leonardo, il nostro Leonardo da Vinci, mangiava gli insetti, dobbiamo mangiarli tutti. Certo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto tutto? No, soltanto però... Qui la parte più interessante sarebbe adesso girare per la redazione e offrire questi grillini e queste locuste. Vedrete nel video. E adesso proviamo a farlo nel video. Intanto salutiamo le Giulie, Giulia Tacchini e Giulia Maffei, che potete trovare su internet sul sito www.entonote.com. Va bene, grazie e come si dice? Buon appetito. Buon appetito. In bocca al grillo. In bocca al grillo. In bocca al grillo. Solo noi a mangiare gli insetti, no? No, adesso usciamo dallo studio e costringiamo la redazione ad una degustazione forzata. Che testimonieremo attraverso il video che stiamo girando, e quindi gli ascoltatori potranno vederlo insomma intorno a lunedì sul blog www.radio24.it in con tutti i redattori che svengono. È molto bello, molto bello. Molto bello. E però Mebius finisce qui purtroppo. Buona settimana a tutti e a tutte, ciao.